Alessà, stasera me ne va per niente. Com'è Anto, che hai fatto oggi? L'influenza intestinale, cioè proprio cioè, l'ampamazzo che considera grave, grave, molto grave. No, ma quando c'è il blues, quando c'è il rock, quando c'è il jazz, quando c'è la grande musica, quando c'è il do re mi fa sol, i tre accordi, tutto passa Antonio, tutto passa. Abbiamo un'ora e mezza, due ore di grande musica da ascoltare insieme e non ci pensare, che cazzo ti frega? Quindi metaforicamente il blues è una sorta di grande limone, stai dicendo questo? Potremmo dire così, sì. Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Default, puntata numero 4 per noi qui di Whiskey Trip, Blues e Jazz, viaggio di sola andata. Questa è la numero 4, la numero 4, è la numero 5, ragazzi, e speriamo che vi sia piaciuta, che abbiate gradito la nostra ultima puntata dedicata al Gypsy Jazz. Questa sera invece siamo sul blues rock, abbiamo una scaletta tutta sul blues rock appunto, e la musica dei neri che incontra il rock dei bianchi, e tutta una scaletta piena di casini e di ritmi. E il primo pezzo, Sonny Boy Williamson, ascoltiamo il nostro ormai amico. Ma non è vero, perché non siamo pronti, quindi cioè chiacchiera Alessà, mi raccomando, 3 minuti, perché qua è successo un macello, vai. Benissimo, allora qui mentre nella regia succede di tutto, comunque la prima traccia è sempre quella, Sonny Boy Williamson, che ormai è qui a Whiskey Trip, a Radio Default, è ormai un amico, uno di casa, perché l'abbiamo ascoltato tantissime volte e anche stasera ce lo mettiamo, insomma. Intanto qui le cose vanno alla grande, perché vedo che tutto si sta risolvendo, la playlist è pronta, i vaghoni si di rock sa che sono forte carichi. Sto cazzo de Paolone ha risorto. Grazie a Paolone che come sempre risolve tutto. La prima traccia, allora Antonio, dove è finita la prima traccia? La prima traccia, Alessandro, che volevi mettere come prima traccia? Allora, la prima traccia l'avevi scelta tu, e era Sonny Boy Williamson insieme agli Yardbirds. Sì, però non la vedo. Stasera non siamo professionali, Alessà, io, cioè, ma che era meglio in media giornata di malattia, non lo so. No, no, ma eccolo lì. Eccolo lì, 06, Sonny Boy Williamson and the Yardbirds con Pontiac Blues. E adesso ce lo presenta Antonio, che immagino vuole dire qualcosa e raccontarci di quella volta di cui alla fermata metro di Giulio Agricola ha incontrato Sonny Boy Williamson. Beh sì, da lì abbiamo stretto subito, Alessà, perché se siamo proprio trovati, mi ha detto, cioè sei in grande, io vedo a pelle un artista, mi ha detto, no? Perché poi lui c'ha anche difficoltà col romano, però quella volta era talmente sciolto che lo parlava bene. Alessà, io sono emozionato, cioè mi aveva quasi da piangere, io ho trovato sto disco, cioè Sonny Boy Williamson insieme ai Yardbirds. Cioè, lo sai chi sono gli Yardbirds, Alessà? Sì, ma non sapevo di questa collaborazione. Cioè, vabbè, una band inglese che insomma ha dato vita, ma io penso che gli ascoltatori dei Whiskey Trip già le sanno queste cose, però le dimo che insomma ha dato, cioè è iniziata la carriera di Eric Clapton, Jeff Beck, addirittura Jimmy Page, che sperimentava, faceva tutta roba con l'archetto di violino, cioè non si sa, faceva per panico, regà. E abbiamo trovato sto disco insieme al nostro caro Sonny Boy Williamson, che tante volte già è passato nella nostra trasmissione. Niente, è un concerto a Londra del 63, loro rifanno molti brani di Williamson per l'appunto, ma anche altre cose, classici del blues, quindi vi raccomando proprio il disco in generale, piratatelo. Spegni il telefono, Alessà, che stiamo in diretta, mannaggia. E niente, dai, vabbè, va a telefonare, io metto la traccia, senti che sound, regà. We'll be right back. I found out what my baby like. That's a whole lot of loving. That straight eight Pontiac. We gon' get on the highway and cut the bright lights on. Get out around, cut the bright lights off. Turn the radio on, dig the boy from the north. Appena ascoltato Sonny Boy Williamson insieme agli Yardbirds e salutiamo di nuovo tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici di Radio Default, chi magari si è messo adesso all'ascolto. Questa è Whiskey Trip, Blues e Jazz sola andata, puntata dedicata alle sonorità blues rock, come il blues ha incontrato e influenzato la musica dei bianchi. E abbiamo veramente un sacco di musica, tante cose da ascoltare, da stare insieme. Il prossimo pezzo che vi proponiamo da ascoltare è un pezzo di John Hammond Jr. E sì, il figlio del forse ancora più famoso produttore John Hammond. E John Hammond Jr. era uno degli artisti che animavano negli anni 60 la vita culturale di New York, in particolare del Greenwich Village, centro cool della Beat Generation, della controcultura, dove appunto in quegli anni si univano anche le tradizioni del blues, del folk, del jazz, del rock. E il pezzo si chiama I Can Tell e adesso Antonio ve lo mette, vi auguriamo buon ascolto. Ah, davvero? E rimanete con noi su Radio Default con John Hammond Jr. I Can Tell. I can tell because it's plain to see. look at me. Born out of the way you walk on, hold my hand on. Oh yeah, pretty baby, I can understand. I know you don't love me no more. Well, baby, I can give you all romance. Oh, yeah, if you'll give me another chance. Oh, I promise I'll keep you warm when it gets cold. I can tell. I know you don't love me no more. Well, I knock on doors and said that you ain't home. Oh, now your sister let me in and tell me I can't wait. Oh, but when you go out, it's so real late. Questa era Jonah Mont Junior e questa sera qui a Whiskey Trip ci sentiamo molto, molto in forma, carichi di energia. Sarà questa musica particolare del blues rock che è veramente bella carica. Questa puntata devo dire che mi piace molto, ci piace molto, speriamo tanto che piaccia anche a voi. Allora, e bando alle ciance, andiamo avanti subito con un mito della musica rock, una voce straordinaria, forse la più bella voce che il blues bianco ricordi, una grande icona, un mito. Parlo di Janis Joplin. E una ragazza, come tutti sappiamo, scomparsa tragicamente a 27 anni, una entrata nella leggenda, forse travolta da qualcosa di più grande di lei, una che sul palco e nei dischi dava veramente tutta l'anima e tutto il cuore. E questo pezzo si chiama Piece of My Heart. Yeah! you're out on the streets looking good. And baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Madonna, sta Janis Alessà. Che c'è? Non lo so. Lasciamo perdere qua. Se ne andiamo. Dimmelo tu. Veramente sì, farei forse un minuto di silenzio per ricordare una persona, un artista così straordinario. E grazie alla musica di Janis Joplin. Allora ragazzi, andiamo avanti con la nostra puntata dedicata al blues rock. In particolare questo pezzo che vi proponiamo adesso, abbiamo scelto di unire un grandissimo chitarrista blues che è Johnny Winter a un famosissimo e leggendario pezzo del rock and roll che è Johnny B. Goode di Chuck Berry, in una infuocata versione dal vivo. E allora ascoltiamocela la chitarra di fuoco di Johnny Winter con Johnny B. Goode. We'll be right back. Rieccoci, regà. Scusate, io mi sto a mangiare nel mentre, perché non ho cenato, mi sto a mangiare due pappardelle. Allora, che mettiamo adesso? Cioè, mo, qua ste due traccette, come le vedi mentre mangiamo? A voglia. Ti piace? Sei convinto? Allora, regà, dato che stasera abbiamo questa playlist, insomma, come ha descritto Alessandro, ma chiedi un po' chi ha fatto queste pappardelle, vedi un po'. Regà, chi ha fatto le pappardelle? Mi sentite nell'altra stanza? Scusate, proprio una comunicazione di servizio. Un applauso, allora, ragazzi, alla mamma di Alessia che ha fatto certe pappardelle che, cioè, lascia perdere. Una botta di vita, mi si stava a chiudere il buco della pubblicità della fiesta e sono rinato, insomma. Allora, dicevo, Tom Waits, ce n'abbiamo una, guarda, partiamo con questa, Alessà, che è da Rain Dogs, bellissimo album dell'85. Mervi non c'è. Adesso arriva bianco, l'amo bianco, un goccetto dell'85, vabbè, che è uno dei primi lavori del secondo, tra virgolette, Tom Waits. Prima si spingeva su sonorità più classiche, molto piano e voce e cose così. Poi che ha fatto Tom Waits? Ha sclerato, ha cominciato, cioè, a percuotere sui secchi strumenti, si è dato al tango, ha fatto tantissime cose. E quest'album, vabbè, ragazzi, lo adoro da anni. Addirittura la rivista Rolling Stone l'ha inserito al 397° posto della sua lista dei 500 migliori album. E addirittura su alcune tracce del disco la chitarra è suonata niente poco di meno che da chi, Alessà? Da Keith Richards, te rendi conto? E allora, regà, The Tom Waits insieme a due pappardelle, Big Black Mariah. Mm-hmm. Rieccoci, regà. Continuiamo, scusate, non ancora finite le pappardelle. E mettiamo un'altra traccia di Tom Waits, nemmeno medi lungo, perché Alessandro, ecco, era tornato Alessandro, ma senza vino. Ma stai a giocare allora, dimmelo. È finito. Com'è finito? Regà, portateci allarme. Usiamo le frequenze di Radio Default per avvisare la popolazione genzanese che qua è finito il vino, vi prego portateci la damigiana, dicevo. E vabbè, allora continuiamo con quest'altra che è bellissima pure questa, del Sam, mazza e playlist che c'eremo stasera. E dall'omonimo disco Earth Attack and Vine del 1980, che è il settimo album di The Waits, ascoltiamo, dillo tu Alessà che c'ha la pappardella in bocca. Earth Attack and Vine. Grande. Down on all the jacket back. Abbiamo ascoltato questa Heart Attack and Vine di Tom Waits. Bentornati qui dai microfoni di Radio Default con Whiskey Trip, la nostra puntata sul blues rock. Abbiamo ascoltato, sì, dicevo, Heart Attack and Vine e Big Black Mariah, due grandi pezzi di Tom Waits. E andiamo avanti con la grande musica. E in arrivo per voi ci sono due pezzi in sequenza. Il primo è dei Canned Heat, famosa band, famosissima band di blues rock. Pensate che sono attivi dal 1965 e ancora oggi suonano e ancora non si fermano. E di loro ascolteremo un pezzo che si intitola So Sad, The World Is in a Tangle, in una versione dal vivo dal Festival di Woodstock. L'altro pezzo invece subito dopo è di Steve Ray Vaughan e la sua band, i Double Trouble, Cold Shot. So sad. consideration and shake things up a bit. We gotta take some consideration and shake things up a bit. Some say no, but still we must insist. Too much smoke, too much gas, too little green, and it's going fast. Help us out or we'll shake your yes, yes, yes. It's bad. We'll be right back. commissary forever causing you pain. You showed your appreciation by walking out anyway. That's a full shot, baby. Yeah, that's a jam. That's a full shot, baby. Eccoci tornati, ragazzi. Allora, guarda, facciamo subito una dedica a Severino, perché mi ha detto che stasera sentiva la mia parte di playlist moscia. Io ho detto che era in salire e non ci credeva, quindi mo gli sturamo subito orecchie. Allora, ragazzi, parliamo di un super gruppo. Ma no, super gruppo perché sono super, lo dico io. Proprio un super gruppo, con questo termine si intende nel rock o in altri generi, quando una formazione formata da musicisti al top, già famosi per altri progetti, si riuniscono insieme per un progetto comune, come ad esempio sono stati gli Asia, Crosby, Stills, Nash & Young, gli A Perfect Circle, eccetera. Potrei citarne milioni, ma la smetto. Parliamo dei ragazzi, sono emozionato perché io penso una delle cose più belle che ho mai ascoltato in vita mia, i Dirty Mac, che sono Eric Clapton alla chitarra solista, che in quel momento militava nei Cream, Keith Richards straordinariamente, vabbè, dei Rolling Stone, ma qui non come al solito alla chitarra, ma lo ascoltiamo al basso. Mitch Mitchell, batterista della Jimi Hendrix Experience, che, ragazzi, penso se n'è il batterista più forte di sempre, poco ci manca. E poi c'era, chi c'era alla voce, alla chitarra ritmica? Quello serio dei Beatles, c'era John Lennon, accreditato come Winston Lectite. E quindi, ragazzi, capirete che è un quartetto che, non lo so, guardate, non c'ho le parole, non c'ho nemmeno la traccia per essere sincero con voi. Ecco, l'ho trovata. Allora, ragazzi, su Radio Default, i Dirty Mac, Air Blues. Yes, I'm lonely. You know the reason. of the earth, my father was of the sky, but I am of the universe, and you know. Girl, you know the reason. The eagle picks my eye, the worm he licks my bone. Feel so suicidal, feel like killing Mr. Jones. Wanna die? If I ain't dead already. Girl, you know the reason. Cloud crossed my mind, blue mist from my soul. Feel so suicidal, even hate my era Year Blues dei Dirty Mac. Abbiamo ascoltato qui su Whiskey Trip questo super gruppo formato da John Lennon alla voce, Eric Clapton, Keith Richards, Mitch Mitchell, grandi musicisti del rock, grandi pezzi questa sera qui a Radio Default tra blues e rock. Stiamo scoprendo come quanto il blues abbia dato alla musica rock, quanto le radici del rock affondino in questa musica, nel blues. E continuiamo allora su questi sound, su queste sonorità, con altri famosissimi nomi, grandi nomi del rock blues. Parlo dei Cream, proprio l'ascoltavamo poco fa, Eric Clapton con la sua chitarra Slow Hand. E lo ascoltiamo anche adesso, Cream, con un classico, Crossroads, un pezzo che è di Robert Johnson. I Cream, che all'epoca, negli anni 60, ebbero veramente un grandissimo successo, forse la band di maggior successo del blues revival, con, pensate, 15 milioni di dischi venduti in soli 3 anni. E quindi ci ascoltiamo Crossroads dei Cream, e subito a seguire altro pezzo da 90 con i Creedence Clearwater Revival, Traveling Band, anche loro un nome stellare del rock, 26 milioni di dischi nella loro breve carriera, soltanto 5 anni, ma hanno lasciato il segno nella storia del rock. E allora vi ricordo la nostra pagina della trasmissione, la pagina Facebook di Whiskey Trip, dove trovate le nostre playlist, video, lasciate anche commenti. E continuate a seguirci, abbiamo trascorso quasi un'ora insieme, continuiamo con il grande rock, il grande blues rock. Allora Cream, Crossroads, a seguire Creedence Clearwater Revival con Traveling Band. Buon ascolto da Radio Default. Won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I won't move. Ammazza che carica Alessà. Stai proprio... Qua tocca che te butto un altro pezzo da 90. Che famo? Però te voglio rispondere, guarda, non te carica, ma ti rispondo de stile. Parliamo... Guarda, allora, facciamo che... C'hai presente Queen of the Highway, Alessà? Come no, grande pezzo dei Doors. Io qua te frego, perché grande pezzo dei Doors, io te ne ho trovato una versione che è presente poi sulle ristampe di Morrison Hotel o su altre raccolte uscite postume, una versione jazz addirittura, Alessà, cioè che c'ha un cantato, uno stile, cioè non lo so, davvero, regà, Frank Sinatra, Jim Morrison gli spiccia a casa, mo sentirete in questa versione. O poi è una cosa che mi tocca pure abbastanza personalmente, io sono uno dei quelli, regà, cioè che è stato sulla tomba di Jim Morrison a Parigi, quindi, cioè, regà, i Doors, Queen of the Highway, senti che jazzetto. She was a princess, queen of the highway. Sign on the road said, take us to Madre. No one could save her, save the blind tiger. He was a monster, black dressed in leather. She was a princess, queen of the highway. Now they are wedded, she is a good girl. Naked as children, out in the meadow. Naked as children, wild as can be. Soon to have offspring, start it all over. Start it all over. American boy, American girl, most beautiful people in the world. Son of a frontier Indian swirl, dancing through the midnight whirlpool. Naked, formless. I hope it can continue just a little while longer. Davvero una scelta raffinata questa di questa Queen of the Highway dei Doors, in questa versione tra blues e jazz, a ricordare qui questa nostra puntata di questa sera come il blues abbia influenzato anche la musica rock, questo continuo scambio. E allora io anche rispondo con un pezzo di una band simbolo della musica rock, quelli che forse presero nelle loro mani l'eredità del blues e ne fecero davvero la consacrazione del rock. Parlo dei Led Zeppelin, il pezzo è You Shook Me, tratto dal loro primo disco. Non a caso la versione originale di questo pezzo, di questa canzone, è del grande bluesman Willie Dixon, che abbiamo ascoltato qui in qualche puntata di Whiskey Trip. E allora ce l'ascoltiamo nella incendiaria versione dei Led Zeppelin, della chitarra di Jimmy Page, in un pezzo tratto da una registrazione per le BBC Session. E allora Led Zeppelin, You Shook Me, su Radio Default. Yeah. Madonna regà, quanto sta carico stasera Alessandro. È difficile stargli dietro, se devo dire la verità, guarda. Vabbè, allora mi gioco subito un pezzo grosso, Alessà. Parliamo, intanto ti dico che parliamo dei Pink Floyd. Parliamo di un brano che proprio originariamente si chiamava Seamus, che è apparso per la prima volta nell'album Metal, rilasciato nel 71. E questa versione, diciamo, è tratta dal notissimo Live a Pompei del 72. E la particolarità di questo pezzo è che, diciamo, vede nella sua formazione David Gilmour all'armonica, Roger Waters che a suonare la Stratocaster di David, e Richard Wright alle tastiere. E alla voce però troviamo niente poco di meno che Nobs, che è in pratica un... come se avessa, perché vabbè, ve lo dimo, raga, ce l'ho il testo in inglese, lo sto a tradurre così. Che razza di cane è un wolfhound? Si traduce, che famo? È un wolfhound. Dici, proprio rimane così? Cane lupo. Un cane lupo, però vedete quante cose imparate stasera da Whisky Trip. Vogliamo anche essere, appunto, una trasmissione didattica. E quindi, ragazzi, su Radio Default, i Pink Floyd, Mademoiselle Knobs. Eccoci tornati, ragazzi, e visto che, guarda, intanto abbiamo tradotto che... ah no, niente, scusate, vabbè, intanto fra queste, scusate, proprio non stiamo filando gli ascoltatori, parliamo delle cose nostre. Beh, qua un'altra non ce l'hai, scusa. Ah, è apparsa lì, perfetto, ragazzi, meno male. Fai tu, guarda, intanto, perché io, ragazzi, io ho un problema, non è che so proprio multitasking. Allora, dicevo che, cioè, capito che roba, raga, intanto abbiamo tradotto, è un cane da caccia, questo cane che accompagna i Pink Floyd in questo brano, e quindi, cioè, l'abbiamo voluto passare proprio per non farci mancare niente, dato che ne so, pare che Sanremo sono tutti cani, e che se gli famo mancare pure a Radio Default, no, i cani stasera abbiamo fatti cantare pure noi. E quindi, detto questo, Alessà, prima che scappo, perché qualcuno viene a linciarmi, tu sei pronto? Che c'hai lì? Guarda, raga, tutte cartelle, si sa che sta a fa, vedi un po'. Allora, in arrivo per gli ascoltatori che ringraziamo, che ci stanno seguendo sempre più numerosi. Siamo davvero felici di questa cosa. Speriamo che Whisky Trip possa allietare un pochino le vostre serate, magari che torni stanco dal lavoro dall'università, dai casini, ma anche alla sera con whisky. Secondo me chi ci ascolta non è gente che lavora, è gente sveglia che non è caduta nella trappola dell'uomo bianco, capito Alessandro? Spero che sia così davvero per voi all'ascolto di Radio Default, o magari ci ascoltate il blues rock, magari è adatto mentre si fanno cose molto più piacevoli del lavoro. E in arrivo per voi comunque c'è un pezzo, e beh, loro non potevano proprio mancare questa sera in questa puntata, perché loro sono il blues rock, sono il più grande blues rock, gruppo blues rock del mondo, e sono i Rolling Stones. E abbiamo in arrivo per voi su Radio Default Rolling Stones, Stupid Girl. Look at that stupid girl. I'm not talking about the way she combs her hair. Look at that stupid girl. The way she powders her nose. Her vanity shows and it shows. She's the worst thing in this world. Well, look at that stupid girl. Rolling Stones con Stupid Girl dal loro disco Aftermath, uno dei primi grandi successi dei Rolling Stones. E allora ancora grande musica, ancora blues rock questa sera a Whiskey Trip. Siamo quasi in chiusura, ma abbiamo ancora qualche bella cartuccia da sparare. E allora il prossimo è un artista davvero piuttosto particolare. E davvero davvero piuttosto particolare, un artista del rock, ma anche un pittore, e una musica molto fatta di diversi stili, Captain Beefheart con la sua Magic Band. E nel 1967 ha pubblicato questo disco dal titolo Safe as Milk. Sostanzialmente un disco di blues rock ancora una volta, ma un blues rock, come dire, quasi d'avanguardia, un blues rock stravolto, onirico, surreale. Potrete sentire con le vostre orecchie questo pezzo che si chiama Sure Enough and Yes I Do, caratterizzato dalla sua voce, un ruggito, una voce cavernosa, terribile, uno spasmo, e dalla chitarra di Ray Cooder, la chitarra slide, uno stile surreale davvero, ma un grande disco, io personalmente mi piace moltissimo, e allora ve lo facciamo ascoltare qui su Radio Default, Captain Beefheart and His Magic Band, Sure Enough and Yes I Do. I was born in the desert, came all up from New Orleans, came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye. Hey, hey, hey, all you young girls, wherever you're at, I got a brand new Cadillac, got a Ferrari skin. Sure enough, baby, sure enough, baby, yes, I did. Got the time to teach your life that you learn some chill. Captain Beefheart, abbiamo ascoltato questa Sure Enough and Yes I Do, e Whiskey Trip va avanti ancora con ancora una buona mezz'ora, vero Antonio, di buona musica in arrivo, no non lo dico, dai, in arrivo un grandissimo chitarrista, insomma, qui alla radio, e io invece vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, che è sempre mercoledì alle ore 20:30. Vi invito sempre a cliccare sul sito di Radio Default, www.radiodefault.it, sulla pagina Facebook di Radio Default, sulla nostra pagina Facebook, a stare collegati, a stare connessi. Speriamo che queste due orette per voi siano occasione per ascoltare un po' di buona musica insieme a noi, vi facciano piacere. Vi saluto e ci lascio qui, Antonio, c'è anche una sostituzione, insomma, arriva la grande Valeria qui a darci manforte, e niente ragazzi, buona serata e ci vediamo mercoledì prossimo qui su Radio Default. Bene ragazzi, salutate Alessandro che ci lascia, chissà che c'ha da fare, c'ha uno sguardo misterioso stasera. Valeria, boh, sto a vedere, raga, forse ci abbiamo pure quasi guadagnato, vediamo un po', ecco, già mi guarda male Valeria perché io faccio le battutacce. Andiamo avanti, vieni Valeria, prendi posizione, vediamo un po', chi è? Fa questa, va, vediamo se ce l'hai la cosa da Whiskey Trip, che siete, famo un contrattino, t'assumemo, questa qua. Hard Heavy, fondato sul cantante statunitense Ronnie James Dio nel 1967. Incisero tre album, ma nel 1975 il gruppo si sciolse e i suoi membri andarono a formare il gruppo dei Rainbow, guidato da Ricky Blackmore, ex Deep Purple. Eccoci tornati ragazzi dopo gli Elf, come diceva Valeria, vecchio gruppo di Ronnie James Dio, e a questo punto intanto siamo passati a sonorità quasi heavy E visto che abbiamo tirato in ballo Dio, andiamo, no, Dio quello di che ha suonato i Black Sabbath, insomma, non famo confusione, non scomodiamo l'altissimo. Arriviamo proprio ai Black Sabbath, ragazzi. Abbiamo scelto in questa playlist un pezzo dal primo album. I Black Sabbath, io penso sia clamoroso quello che è successo all'uscita del loro primo disco. Usciva, intanto fanno parte della immensa triade del rock insieme ai Led Zeppelin. A chi, Valeria? Vediamo se lo sai. Allora, so, i Black Sabbath, i Led Zeppelin, regà, se non lo usava, licenzio. Di Purple, ammazza, vabbè, ci hai preso grossa, va. Te sei, oh, vedi, cioè, comunque pure con la sostituzione a Whiskey Trip andiamo forte, regà. E così dicevamo, cioè, ragazzi, questi hanno inventato praticamente l'hard rock, il metal, quando, cioè, davvero non c'era niente prima, cioè l'hanno inventato di botto grazie alle chitarre di Tony Iommi, la voce di Osbourne. E quindi, vabbè, ho scelto un brano del primo disco che è The Wizard. Ci piaceva per il fatto pure che, insomma, c'è anche un po' di armonica suonata proprio da Ozzy Osbourne. E quindi niente, raga, come vedete ci stiamo a spingere pure su sonorità belle e ignoranti, e dai, è così su Radio Default. Sun is shining, time to come by. All the people basta questa musica del demonio, per favore. Cioè, che, perché vale queste cose hai messa tu? Sì, mi dice sì, Valeria. Però vabbè, era semplicemente per cambiare un attimo sonorità, visto che siamo in chiusura, questa ci tenevamo a passarla, ragazzi, dato che avete capito le tematiche, insomma, di questa puntata ampiamente descritte prima. Se vi siete connessi ora, peggio per voi. Parliamo intanto dei Queen. A me già mi trema la voce perché è un onore. Allora, a sto punto mi dispiace pure che Alessandro è andato via. Ci tengo a dirlo, il pezzo che abbiamo scelto intanto è un jazz proprio di classe che presenteremo tra pochissimo. È bello dire che, nel senso, pensa, lo racconto a te, almeno mi viene meglio, che tu pensa, quando eravamo piccoli, Alessandro, cioè 14-15 anni, eravamo metallari, avevamo la band, sembrava che avevamo tutte le sere, invece se mo no. Siamo maturati. Niente, vabbè, insomma, cioè, lui un giorno mi venne, addirittura mi ha piratato tutta la discografia dei Queen. E io, è una cosa che proprio, cioè, mi ha dato tantissimo, perché i Queen, vabbè, conosciamo tutti, tutti forti, però, cioè, andandoli a scoprire, a parte, che ne so, quelle 20-30 canzoni famosissime, è davvero un gruppo che ha fatto tutto. Cioè, negli anni 70 ha spinto molto sul rock duro d'un certo tipo, cioè, non c'erano niente da invidiare, per esempio, che so, ai Led Zeppelin. Si sono spinti, ecco, appunto, fino al jazz, come dicevamo, sono passati per l'elettronica, il country, l'hard rock. Cioè, davvero, i Queen è una band che secondo me andrebbe ancora approfondita, perché nonostante se ne parla tanto come fama, però si parla sempre delle solite cose, ecco, e forse questo è davvero un peccato. Quindi io ringrazio Alessandro che quel giorno mi ha piratato la discografia, perché insomma io piano piano me la sono ascoltata tutta e penso che a quell'età mi ha davvero aperto tantissimi orizzonti. Il pezzo che abbiamo scelto è dall'album News of the World del 77, famosissimo, è lo stesso di We Will Rock You e We Are the Champions. E niente, ragazzi, a Radio Default, questi cavolo di Queen, abbiamo My Melancholy Blues. Left cold sober, baby left me for somebody new. I don't want to talk about it, want to forget about it, want to be intoxicated with that special brew. So come and get me, let me get in that sinking feeling that says my heart is on an all-time low. So don't expect me. I'm in for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood. So now move over and let me take over with my melancholy blues. Thank you. soldier, come into my enclosure and meet my melancholy blues. Allora c'è Valeria con carta e penna, se sta preparata per il prossimo pezzo. Però ragazzi, allora adesso ci abbiamo facciamo proprio una tripletta di un grande, regà, di Jimi Hendrix, uno dei nostri. Abbiamo scelto dei pezzi parecchio blues e mo niente, vediamo Valeria come ce lo presenta. Questa Valeria è la prova del 9, non ti sbagliare, non ti agita, fammi sentire, va. Beh, sono emozionatissima perché Jimi Hendrix è la musica, secondo me, quindi mi sudano le mani e ho le goccioline che cadono alla fronte. Quindi il prossimo pezzo tratto da Blues, album pubblicato postumo nel 1994 dalla AMC Record. Il disco è composto da 11 brani registrati dal 1966 al 1970. Il pezzo è una cover di Maddie Waters, Jimi Hendrix su Radio Default. Mama Hank and take one. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Everything's gonna be alright this morning. About the age of five, I think I had something in my pocket. Keep a lot of vocal line. I'm a man, maybe 21. You know, baby, we have a whole lot to put. cousin, little John McCormick. Danno del cattivo in studio, ragazzi, ma non lo so. Autoritario e cattivo. Beh, mi piace sto ritratto e cercherò di non deludere st'immagine. E quindi, dato che so cattivo, io so cattivo, ma guarda che pezzetto che t'ho trovato. Poi ditemi de male. Allora, ragazzi, parliamo intanto di Catfish Blues, che continuiamo con Hendrix, tra parentesi, È un classico, insomma, un tradizionale. E questa versione è tratta dallo show televisivo tedesco. Come si legge? Di mode, perché ecco, stai qua, fai qualcosa che è. Qua. Dito al microfono, come si legge? Hohepla. Lo senti che è tedesco, gagliarda Valeria. E Hendrix innesta sulla canzone le prime due strofe di Rolling Stone di Muddy Waters e l'ultima strofa di Still a Fool, sempre di Muddy Waters. Inutile dire che in questo brano è... aspettate che fanno segni. Allora, si sente il background? Ah, ok. E dicevamo, in questo pezzo è eccezionale, sublime, divina. Cioè, eroateo prima di ascoltare sto pezzo, regà, l'enormità di Mitch Mitchell. Cioè, praticamente ci sono anche, c'è anche un aneddoto da raccontare. Per esempio, il manager di Hendrix, non contento della band, voleva che Hendrix fosse accompagnato da invece che dalla Jimi Hendrix Experience, che erano bianchi, tra parentesi, voleva una band nera per lui. Non so se per motivi di marketing, motivi razziali, non chiedetemelo. Fatto sta, fecero questo esperimento, si divisero e Hendrix, estremamente insoddisfatto da questa nuova formazione, tornò, cioè andò addirittura a Londra a ricercare Mitch Mitchell. E io penso che questo pezzo è proprio la sintesi di questo aneddoto, insomma, basta poco a capire perché. Poi vabbè, dopo questa, ragazzi, ne finiamo pure una tripletta. È una versione, ne mettiamo un'altra, una versione da Woodstock di Voodoo Child, la scelta Alessandro, quindi non dico nemmeno niente a riguardo, non so che voleva dire. E con questo, ragazzi, ci salutiamo e vi aspettiamo a mercoledì prossimo. Vuoi dire qualcosa, Valeria? Io ringrazio Whiskey Trip per l'opportunità che mi avete dato e come se la parte lo stesso adesso qui il lavoro grazie agli altri, aspetta il partito non ne va giusto. Viva l'Italia, fascista e borghese. Grande, grande Valeria con questa considerazione. C'ha ragione pure lei. E allora, ragazzi, su Catfish Blues vi saluto e ci vediamo la settimana prossima. Fishing after me.

Child, live at Woodstock 1969. Thank you. Like I said, the name of the group one more time. This is the first song gig. We'd like to say thank you very much, man, for this in your ears and your hearts. And the name of the group is the Sun and Rainbows. And you can call it Band of Gypsies, anything you want. Let me call again. The cat with the purple pants on playing combos on. That's Juma. We have Larry Lee with the headscarf around his face. And we got Billy Cox playing bass. Mitch Mitchell. Jerry Bonnell. Take up all your sweet time. I'm gonna write back one of these days. Thank stick in. You can leave if you want to. We're just jamming. That's all. You can leave or you can clap.